I problemi sollevati dalla Commissione europea possono essere risolti rapidamente, spiega Viktor Orbán, primo ministro ungherese che parla alla plenaria nell'Europarlamento. Il leader della destra magiara difende la nuova Costituzione, la definisce ispirata a principi e prassi degli altri paesi europei, ma non intacca con questo i dubbi dell'Aula. Orbán ribadisce la disponibilità a trattare sui punti controversi e riceve anche da sinistra il riconoscimento del ruolo svolto 20 anni fa, durante il passaggio da comunismo a democrazia, ma non spiega come mai tanta parte dell'opinione pubblica denunci la concentrazione dei poteri nelle mani del Premier e leggi contrarie alla libertà d'opinione. I very much welcome the opportunity to take part in this debate today on developments in Hungary and to present clearly the Commission's approach and role in this regard. Proprio lungo questa linea si spinge il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, che parla prima di Orbán e riconosce che la controversia in corso tra l'UE e l'Ungheria non riguarda solo aspetti tecnico-giuridici di compatibilità di alcune leggi nazionali con il diritto comunitario, ma anche una dimensione politica che tocca nel profondo la visione europea dei rapporti tra governo e opposizione, tra Stato e società civile. Martedì prossimo sarà faccia a faccia tra Barroso e Orbán, che già promette di presentarsi a Bruxelles con alcuni interventi per rassicurare l'Europa. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.